si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca un po' diversa su Radio 24, il mezzogiorno del sabato e della domenica. I protagonisti non sono i soliti noti, i personaggi della politica, i ministri, gli economisti, ma sono siete voi anche, voi italiani con le vostre piccole e grandi storie virtuose che ci insegnano che insomma ce la possiamo fare e speriamo anche con il sorriso. Subito qualche notizia della settimana per cominciare. E questa è una notizia curiosa che viene da Bologna. Il comizio, visto che siamo insomma, in prossimità di una lunga campagna elettorale, il comizio del candidato libero. Sono apparsi centinaia di volantini affissi in tutta la città per segnalare questa singolare discesa in campo. E il volantino recita così: sono stanco di sentir parlare di me e della cultura come di una spesa superflua, sono stanco di una politica che non crede nelle mie capacità di creare ricchezza. Aiutami, candida un libro al governo del paese. Terrò il mio primo comizio martedì 6 novembre alle ore 17 in piazza Re Enzo a Bologna. Un comizio di un libro, anche questo si può fare. Vedremo che cosa accadrà martedì prossimo a Bologna, un'iniziativa insomma a sostegno della cultura. La prossima notizia è una segnalazione di solidarietà, viene dall'Umbria. Da oggi la spesa è gratis, leggiamo da un quotidiano di cronaca locale. Arriva il supermercato per chi non ce la fa, si chiama Emporio della Solidarietà, è nato a Città di Castello, in Italia però se ne contano altri 11, è gestito dai rappresentanti della Caritas, si danno a disposizione 4 mesi di tempo per tornare in pista, per rimetterti in piedi. Intanto in questi 4 mesi puoi andare a fare la spesa gratis, questo a Città di Castello in Umbria. All'Aquila ha presentato l'ufficio della partecipazione, un luogo in grado di garantire ai cittadini aquilani un collegamento diretto con l'amministrazione comunale. Una iniziativa non nuovissima, a dir la verità, però evidentemente ce n'era bisogno in questa città. È stata presentata dall'assessore Fabio Pelini, che ha detto: c'è già molta carne al fuoco, diverse petizioni stanno per partire all'Aquila. Dunque, cari cittadini, sappiatelo, c'è da un po' di tempo, da qualche giorno, l'ufficio della partecipazione per tutte le vostre domande, per le vostre richieste di partecipazione. Adesso con l'ultima notizia ci spostiamo a Vistarino, la generosità di due anziani, regaliamo l'automobile usata al comune. Questa buona notizia arriva appunto da Vistarino, è segnalata dal Giorno. L'autovettura sarà utilizzata dai servizi sociali. Veneranda e Francesco Raffaldi, si chiamano così due donatori, si sono sempre prodigati per gli altri, tanto che a loro non sembra neppure di aver compiuto un gesto straordinario regalando l'automobile del 2002 acquistata, usata 2 anni fa. Lui, Francesco, non guida più e allora ecco l'idea, regaliamo l'automobile al comune che ha deciso di adottarla, la userà per i servizi sociali. E insomma, se tutti, tanti facessero donazioni di questo genere, cose così, sarebbe bello, insomma, staremmo tutti meglio. Queste sono alcune delle notizie che abbiamo voluto mettere in evidenza oggi. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni, le vostre curiosità sulla pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24. E poi, durante la settimana, non trascurate la segreteria telefonica per lasciare la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. L'Italia ce la può fare a sopravvivere e può vincere anche contro tutta l'Europa, secondo me, sfruttando l'enorme potenziale energetico tra cui sole e vento, e utilizzando al posto delle centrali nucleari, le quali si volevano costruire, le centrali normalissime idrogeno, che hanno inquinamenti di emissioni azzerati, e si potrebbe vivere tranquillamente staccandosi dal petrolio e dalle altre fonti energetiche ultra costose, cosa che in altri paesi dell'Europa e del mondo stanno già iniziando avviando, vedete Giappone. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ricomincio da qui. Ricomincio da qui, da oggi vogliamo inaugurare un appuntamento, Si può fare su Radio 24. ricominciare da cosa? Da un lavoro inventato. Il lavoro non c'è, allora me lo invento. Sono le storie, sono tante, che vi proporremo in queste settimane. La prima riguarda una giovane ragazza che viene da Bergamo, si chiama Chiara Caielli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, insomma, nello spirito del programma, visto che sentiamo parlare, ed è purtroppo una verità, che la disoccupazione è non solo un fenomeno grave, ma è ancora sempre in aumento. Il lavoro non c'è. Allora, che cosa faccio? Me lo invento. È quello che ha fatto un po' lei, che Chiara, che cosa ha fatto? Fa la dog sticcera. È difficile anche a dirlo, ma insomma... Chi sa l'inglese ha capito. La Cere fa dolci per cani. Buongiorno a tutti, io sono laureata ormai da più di un anno in giornalismo e adesso sono una tutor universitaria part time, però comunque ho sempre avuto la passione per la cucina dei dolci. Di recente la mia amata cagnolina, comunque molto anziana, è stata male, allora ho rispolverato appunto delle ricette che avevo in giro per casa, delle ricette appunto dedicate ai cani. Allora, volendole far provare comunque delle ricette totalmente naturali per farla star meglio, ho iniziato a sperimentare questi specie di biscotti per cani, ecco. E lei è impazzita, ho visto che andava tutto bene, allora mi è venuta proprio nel giro di poche ore l'idea di diffondere la cosa. Sono andata a consultare il mio veterinario di fiducia, ha provato proprio tutte le ricette, nel senso di quantità, ingredienti, metodi di preparazione, e allora ho deciso di mettere in piedi la cosa più seriamente, ecco. Quindi ho fondato Bocconcini Canini Mi Fido. Che è anche una pagina Facebook, vero? Sì, sì, sì. facebook.com/bocconcini canini mi fido, scritto tutto attaccato. Ora, per me resta un mistero come i padroni o i proprietari dei cani in particolare, insomma questo mondo degli amanti degli animali e dei cani in particolare, possano anche arrivare a spendere delle cifre importanti. Ora qui parliamo di alimentazione, quindi un bene necessario, però sappiamo che c'è tutto un marketing, tutto un commercio attorno ai cani, che a me fa un po' impressione, però magari, dirai tu, ci fosse gente disposta a spendere per il cane, così tu ci fai il tuo business, o no, Chiara? Sì, allora, bisogna dire che io sono amante degli animali e dei cani soprattutto. Non sono comunque molto d'accordo con tutta l'economia e il marketing attorno comunque agli animali. Ad esempio, sono disposta a spendere qualche euro in più per un cibo naturale sano piuttosto che però per un cappottino invernale, ecco. Io lo dico spesso, cioè non bisogna giocare con gli animali, ecco, come fossero delle Barbie, quindi va bene spendere sulle cose giuste, tra l'altro a maggior ragione sulle normative recenti che sono uscite anche per il cibo per il cane, per le nuove regole igieniche che ci sono, appunto salutari, e su quello va bene, però per altre cose no, trovo che sia un'esagerazione. Chiara Caielli, la dog sticcera di Bergamo, resta in linea con noi, facciamo una pausa per il traffico, poi voglio chiederti, Chiara, cosa ne pensi dell'affermazione del ministro Fornero sui ragazzi schizzinosi che insomma si tirano indietro di fronte a proposte di lavoro che non gli piacciono. Tu hai trovato una tua strada che ti piace, però ti sei anche messa in gioco con qualcosa che non c'entra nulla con la laurea che hai, quindi vogliamo sapere la tua opinione. Si può fare cronache da un paese migliore. Se il lavoro non c'è, allora me lo invento. Oggi partiamo da qua con la storia di Chiara Caielli, che fa dolci per cani, la dog sticcera. E vogliamo chiederti questo, Chiara, la tua è una storia un po' emblematica, perché hai un altro lavoro part-time, sei laureata in una materia umanistica, non hai trovato un lavoro, però non sei stata sicuramente lì con le mani in mano. Ci sono altri ragazzi, magari diversi da te o che tu vedi attorno a te, che sono ciusi, schizzinosi, come ha detto la Fornero? Effettivamente sì, ho visto dei ragazzi abbastanza schizzinosi, ma non tanto per pigrizia, ma perché di fatto comunque hanno delle aspettative e degli ideali, comunque vogliono fare quel lavoro e cercano di far di tutto per raggiungere l'obiettivo, che è lodevole come cosa. Dall'altra parte comunque io stessa, come molti amici che mi circondano, diciamo che ce la stiamo cavando con altro. Io personalmente anche durante la laurea e subito dopo ho fatto anche la lavapiatti di notte, cioè insomma mi sono data veramente da fare. Al momento sono veramente felice, mi sento realizzata perché unisco comunque due amori, cioè per la cucina e per gli animali, che insomma non è fortuna di tutti. Insomma, una passione, questa è già una fortuna per Chiara. D'altra parte si può studiare anche per la propria formazione e crescita personale, e non è detto che il lavoro poi debba andare per forza in quella direzione. Questo almeno è al momento quello che dimostra in parte la storia di Chiara Caielli, dog sticcera di Bergamo. Per chi volesse far assaggiare al proprio cane i tuoi bocconcini, abbiamo detto alla pagina Facebook, fai anche delle fiere dei mercatini, c'è qualche appuntamento? Non è confermato, comunque se va tutto bene dovrei essere l'11 novembre, domenica, sì, a Dinarzo, alla Fiera del Cioccolato, dove tra l'altro proverò ad inaugurare la mia nuova ricetta delle gocciole canine. Ah, con cioccolato, vabbè, commestibile per cani, digeribile per i cani. Io torno a dire che per me tutto questo è in parte un po' un mistero, però per Chiara è, speriamo, possibilmente un lavoro. Grazie intanto, e allora per chi fosse interessato abbiamo dato anche questo appuntamento. Grazie Chiara. Grazie mille a voi. Ricomincio da qui. E questa era la storia di qualcuno che ricomincia da qui in modo un po' singolare, ma sicuramente positivo e propositivo. E vogliamo di questo continuare a parlare anche con il nostro amico e collega Daniel Tarozzi, direttore del cambiamento.it, in viaggio per l'Italia che cambia. Daniel, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ricordiamo il sito del blog che sta seguendo questo tuo viaggio, italiachecambia.org, dove tu vai raccogliendo storie di varia natura. Mi piace ricordare proprio in questo momento il sottotitolo: per incontrare e conoscere chi ha preso la propria vita in mano senza aspettare che qualcuno agisse al suo posto, che è perfetto rispetto alla storia di Chiara. Non so se hai sentito qualcosina, questa ragazza, sì, che certo, si è inventata un mestiere da zero. Daniel, poi ci racconterai anche alcune tappe del tuo viaggio, cose particolari, però è possibile, visto che tu sei anche il direttore di un sito, ilcambiamento.it, che promuove proprio questo passaggio dal virtuale al reale, storie di gente che si rimbocca le maniche, delineare una linea di tendenza da questo punto di vista, cioè la gente che si inventa dei mestieri, che si dà da fare per reagire così alla crisi, Daniel? Sì, quello che è interessante notare è che c'è una doppia motivazione, cioè c'è la necessità, purtroppo spesso drammatica, ma c'è anche la scelta. Noi sul cambiamento cerchiamo di raccontare entrambe le cose, ovvero appunto i tanti giovani che non trovano un lavoro e quindi sono obbligati a scegliere, a inventarsi qualcosa di nuovo. Io tra l'altro tra questi, un giorno volendo potrei raccontarvi anche la mia storia, e quelli che invece si licenziano. Noi nel nostro sito diamo uno spazio al cosiddetto ufficio di scollocamento, che sono persone che decidono di cambiare lavoro perché si rendono conto che i ritmi, oppure perché non c'è futuro, perché decidono di prendere la vita in mano prima di essere cacciati, ecco. E le tendenze sono tante. Io noto che la prima tendenza, e la più forte, di chi cerca di inventarsi in modo nuovo è quella di creare un lavoro, ma anche non necessariamente un lavoro pagato, nel senso che esiste una quantità di lavori che ci permettono di spendere meno soldi, e quindi di fatto è come se fossero dei guadagni. Cioè si inverte in qualche modo l'ordine dei fattori: invece di lavorare per guadagnare, lavorare per spendere meno. Esatto. E quindi è una forma di guadagno anche questo. Non insignificante. Ah, certo. Perché si tratta di abbattere i costi di mantenimento di una famiglia con figli anche di 500.000 euro, insomma. Perché tutta la chiave sta nell'avere tempo a disposizione per fare, esatto, delle cose. Per cui se io non ho un lavoro, sono in questa condizione momentanea, o anche che si prolunga nel tempo, però ho a disposizione questa risorsa preziosa del tempo, posso fare delle cose che mi fanno risparmiare, quindi cambio stile di vita. Per esempio fare che cosa, Daniel? Per esempio cominciare a non comprare una marea di cose che si possono autoprodurre, magari spostarsi a vivere in luoghi dove le case costino meno, che sono tantissimi, l'Italia a metà del suo territorio semi-abbandonato, ma anche imparare a fare le cose e non dover pagare profumatamente per qualunque piccola riparazione in casa, aggiustare, cucire, sistemare, cucinare. Sì. Veramente oggi noi siamo abituati a non saper fare più niente, anche veramente a volte si tratta di cambiare un bollone. E poi è veramente una corsa contro il tempo, perché chi lavora non ha tempo per fare tutte queste cose, deve pagare qualcuno per fare al suo posto, e non è detto che invece non ci sia anche una soddisfazione nel fare magari in famiglia tutta una serie di cose che fanno parte, insomma, della conduzione di una casa normale. Sì. ovviamente parliamo di casi in cui c'è un minimo, cioè chiaramente si parla di avere quantomeno un tetto sulla testa, certo, non bisogna poi mai sottovalutare il dramma. Le cose fondamentali, chiaro, bisogna avercele, quindi, sennò... Dopo una volta che si ha un tetto, in realtà io tutte le persone che ho incontrato mi raccontano che quella che era un dramma è diventato poi un'occasione per vivere meglio, perché magari si trovano a campare con 400 euro al mese, 500 euro al mese, ma riscoprendo la gioia di avere il tempo per i propri familiari, ma anche solo il piacere di fare le cose, perché attenzione, c'è un grande bluff in questa società che sarebbe quello dell'emancipazione attraverso il lavoro, ma quanti di noi fanno un lavoro che lo realizza? In realtà noi oggi lavoriamo, l'80% di noi, per guadagnare dei soldi, quindi in quel caso lì, se uno riesce a trovare modi alternativi di vivere guadagnando meno ma lavorando in modo diverso, questo non è un rinunciare alla soddisfazione di sé. Poi insomma ci sono però anche proprio dei settori, noi lo diciamo spesso dai microfoni di questo programma, che vanno in controtendenza, dall'agricoltura all'artigianato, dove si può anche creare un lavoro normale, magari diverso da quello dell'impiego, da quello dell'ufficio, però un lavoro vero, e quindi reagire in questo modo alla mancanza. Queste che hai detto sono proprio le due tendenze più forti, sì. Il ritorno alla campagna, che secondo non ho avuto modo di quantificare, ma io sto incontrando tra la Sardegna, il Piemonte, il Veneto, il Trentino, adesso tantissime coppie di ragazzi, ragazze, gruppi di giovani che scelgono di tornare a vivere in campagna e di coltivare la terra, e lo fanno tra l'altro con anche tecniche naturali ma moderne, quindi che richiedono meno sforzo e parità di risultato, e lo fanno con grande piacere, e non solo per l'autoproduzione ma mettendo su veri e propri circuiti anche commerciali, quindi piccoli imprenditori agricoli o persone che scambiano le eccedenze, che vendono e così via. Ho incontrato diverse persone che riescono a vivere in questo modo dignitosissimamente, anche parlo di coppie con figli, insomma, quindi non solo di singoli. E l'altro discorso è l'artigianato, questo è un po' più difficile perché purtroppo quando c'è crisi la gente compra anche meno, quindi l'artigianato che fino a qualche anno fa stava vivendo una fioritura, adesso è un attimo un momento di stallo, però anche lì i lavori manuali stanno tornando molto, anche perché c'è più richiesta di fatto, quando manca tutto, per esempio saper aggiustare un vestito diventa fondamentale. Proprio a questo proposito mi viene in mente l'esperienza che ho visto a Genova adesso di due donne, una madre e una figlia, che hanno aperto un negozio in centro a Genova dove fanno corsi di cucito e hanno avuto un enorme successo, questi corsi sono sempre pieni, loro fanno anche vestiti di moda che però fai da te, ti danno la stoffa, ti insegnano a cucirtelo e tu te lo puoi cucire da solo e riescono a vivere di questo, piuttosto che, forse ne avete parlato anche voi in trasmissione, l'esperienza di Edilana in Sardegna, certo, o Stefania Rossini vicino a Brescia, che è riuscita a abbattere il budget mensile della propria famiglia. Bellissime storie, tra l'altro. Daniel, tu accennavi alla tua, la prossima volta che ci sentiamo a questo punto ti devi svelare e ci racconterai anche la tua trasformazione che ti ha portato ad essere quello che sei oggi, cioè un giornalista che sta girando l'Italia, il blog si chiama italiachecambia.org. grazie per ora. Grazie a te e buona giornata, e ci risentiremo presto allora. Presto. E questo era Daniel Tarozzi col suo viaggio per l'Italia, come detto lo ritroveremo adesso. Prima di andare agli aggiornamenti del giornale radio, andiamo a sentire qual è la notizia si può fare, la più bella dal mondo, che siamo andati a pescare. And the winner is... Winner is Libros Libres. Il premio di questa settimana va in Spagna, a Madrid, nel quartiere Chamberí, dove da qualche mese è nato Libros Libres, la prima libreria gratuita d'Europa. Chiunque può entrare in questo piccolo negozio, scegliere un libro e uscire senza pagare. Perché da Libros Libres tutto è gratis. Ma non si tratta di beneficenza. La quota richiesta per diventare soci è di 12 euro all'anno. E chi è in difficoltà può contribuire portando libri, materiale scolastico, dolci fatti in casa, mobili o caffè. Insomma, Libros Libres è una libreria comunitaria. Ci lavorano oltre 100 volontari che fanno parte della ONG Gruppo 2013. Il loro obiettivo è facilitare l'accesso gratuito alla lettura in un periodo in cui il libro sembra tornato di moda, dato che costa poco e dura a lungo. L'idea di mettere i libri indesiderati nelle mani di coloro che li desiderano è nata sulla scia del The Book Thing di Baltimora, una libreria statunitense che da 14 anni offre i suoi libri a titolo gratuito. In quel caso, il titolare aveva iniziato a raccogliere i libri per metterli a disposizione degli studenti. Oggi, purtroppo, non sono più solo loro gli squattrinati. In ogni caso, entrambe queste storie dimostrano che battere la crisi con i libri si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi siamo partiti dalla storia di Chiara Caielli, avete sentito, la dog sticcera di Bergamo che fa dolci per cani. Si è inventata un lavoro, abbiamo parlato di questa tendenza proprio di inventarsi dei lavori laddove non ci sono, con Daniel Tarozzi, che è in viaggio per l'Italia, l'italiachecambia.org, il suo blog, se siete interessati a sentire le sue storie. Adesso invece vogliamo parlare di un'altra storia. La notizia di qualche giorno fa segnala un po' quello che stavamo dicendo prima. L'andamento più che positivo dei prodotti dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura in generale, di una delle sue filiere, che è quella della spesa di gruppo. È boom, infatti, di gruppi di acquisto solidale, e si conta ormai oggi in Italia che questo modo di acquistare prodotti abbia contagiato il 18% degli italiani, 7 milioni di persone. Ne parliamo tra poco, raccontando una storia che viene dalla Sicilia. Proprio è il caso di dirlo, insomma, tutti noi con i nostri acquisti, quando li facciamo, siamo detentori di una certa quota di potere, possiamo scegliere cosa comprare e quindi a chi destinare i nostri fondi e quali prodotti valorizzare, senza voler andare contro nessuno, però i gruppi di acquisto solidale di cui stavamo parlando sono senz'altro una tendenza interessante. È stato presentato al Salone del Gusto di Torino qualche giorno fa l'ultimo nato in Sicilia. Ci interessava raccontarlo perché porta con sé anche storie di inclusione sociale e di lotta alla criminalità, impegno contro le mafie, insomma un sacco di cose. Andiamo per ordine, salutiamo Filippo Romano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie Filippo, per aver chiamato. Lo presento così, operatore sociale in una cooperativa. Lui stesso ha rimesso in funzione, adesso ci spiegherà come, un'azienda agricola di famiglia, però soprattutto coinvolto in questo gruppo d'acquisto solidale a Messina. Cosa fate? le diverse sfaccettature di questa storia, posso dare un piccolo contributo, come piccoli siamo noi, come gas. Noi quello di cui stiamo parlando è un gas che è nato come tutti gli altri gas, non so se voi già insomma conoscete la abbastanza fra però ci acquisti, spieghi ci spieghi solidale. Sì. questa piccola consonante cambia completamente, diciamo, il punto di vista, nel senso che solidarietà significa solidarietà verso tutti gli altri soci del gas, solidarietà verso i piccoli produttori, e io appunto nella doppia veste di socio del gas e di piccolo produttore, cioè, posso dire che... Cioè lei ci guadagna anche, perché i prodotti sono insomma, i suoi. Insomma, d'altra parte è anche un lavoro. Cosa? Quello che abbiamo guadagnato nell'ultimo anno come azienda agricola, insomma... No, non ci butti diciamo giù così, è pochissimo. No, ma già guardi, sì. Che una piccola azienda in Sicilia, sì, dove fino a 10-15 anni fa le arance si buttavano o ti davano il contributo per mandarle al macero. Ma voi che cosa producete, Filippo? Noi siamo proprio piccoli, abbiamo io e i miei due cognati e mia moglie, abbiamo meno di 5 ettari, produciamo mandarini, mandaranci, poche arance, diciamo che una produzione significativa sarebbe questa. Poi il resto sono, sì, adesso Filippo, abbiamo le castagne, se qualcuno vuol venire a raccoglierle. Io volentieri, se non fosse per la distanza. Lei però mi diceva, Filippo, che praticamente ha coinvolto appunto i suoi parenti e li ha tirati giù dal letto, insomma, no, li ha messi certo in questa avventura, perché lei è convinto di questo. Gli altri erano magari più riluttanti, però insomma lei ce l'ha fatta a convincerli. In un paese interesse, insomma, convincere che vale la pena di fare il biologico, che vale la pena di spendere soldi per le campagne, ecco, quando la tendenza appunto era di non curarla più, invece curarla e curarla in un certo modo, e questo è il primo passo. Poi da questo, insomma, a quello che si sta muovendo in questo periodo, anche se vuoi, è dettato dalla crisi, perché la gente comincia a pensare che è meglio essere attori che essere, diciamo, vittime del mercato, quindi decidere, come diceva lei poco fa, è già un voto, nel senso che è un voto contro la mafia, perché la mafia controlla anche questo, è un voto vero e proprio, perché si sceglie di fare sopravvivere i piccoli e di non fargli fare, insomma, il famoso viaggio del pomodorino di Pachino che tutti conosciamo. Ecco, cioè, però Filippo, lei mi diceva che non soltanto ci sono tutti questi valori aggiunti relativamente alla legalità, per esempio siamo in Sicilia, e insomma la riscoperta del lavoro agricolo, tutto quello che vuole, però c'è anche un circuito economico che funziona, che si tiene, perché lei mi diceva la gente sta riscoprendo il piacere di comprare spendendo magari non di meno, però sapendo che compra prodotti di qualità che hanno anche tutti questi valori aggiunti, cioè in sostanza i suoi mandarini se li compra la gente. Sì, se li compra, devo dire che naturalmente se li compra più la gente del nord, perché diciamo che il mercato è... Il messinese medio cosa fa? Non se ne frega dei suoi, del gas? No, perché non ho sentito, sono... mi scusi. No, dicevo, il messinese, siccome lei dice i mandarini se li comprano quelli del nord. No, il messinese... c'ha i parenti che hanno la frutta, c'ha il nipote, il cognato, c'è qui. Però quello che abbiamo cercato di smuovere è che questo discorso valga anche al contrario. Cioè, faccio l'esempio più eclatante, perché c'è una rete di economia solidale che si sta cominciando a muovere. E per esempio noi abbiamo fatto sia a Messina che in diverse città della Sicilia un ordine del parmigiano terremotato, cioè questo circolo virtuoso che vogliamo aprire nella strada in tutti e due i sensi. Insomma, cioè, non soltanto volete il parmigiano, esatto, che andava perso, sì. Abbiamo mosso gli stessi canali, diciamo, del gas che funziona già per i prodotti. Ecco, in generale è dato un significato un pochino più forte a questa S di solidarietà, per l'appunto. Ecco, quindi insomma non soltanto voi volete trovare uno sbocco di mercato per i vostri prodotti che hanno un contenuto solidale, ma siete pronti anche a farlo per altri, altrimenti non sarebbe un circuito, e questo è bello, vi fa onore, si sente anche la passione dalle sue parole, vi auguro di diventare ancora di più, Filippo. Quando si diventa troppi non è neanche un buon, cioè, nel senso, ci pochi vuole una semina, perché il gas quando diventa troppo numeroso perde il senso, quella genuinità del fatto che ognuno conosce il produttore, che si va nelle campagne dei produttori per controllare come lavora veramente, se per raccogliere le arance prende gli extracomunitari in nero e li paga 20 euro al giorno, ecco. Quando si perde il controllo del produttore, e allora dico, è meglio essere tanti e piccoli. Questa è una cosa che ormai, diciamo, anche a livello nazionale si è capito, che fare questi grandi happening con 600-700 famiglie, poi insomma si perde... È troppo. E allora noi, con questo appello a non strafare, a non esagerare, che viene da Filippo Romano del gruppo di gas di Messina, chiudiamo qua. Grazie, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo. Una bella notizia dalla Sicilia, visto che ci sono state le elezioni e si è parlato tanto di politica, di guai della politica, di costi della regione, eccetera. Abbiamo voluto trovare anche così una storia diversa che veniva dall'isola. Si può fare cronache da un paese migliore. Tutti quanti gli altri hanno chiuso le porte, ma noi siamo buoni, vi accogliamo a braccia aperte qui nel paese dei balocchi. Il paese dei balocchi perché è quello che la Johnny Biscotto Extraordinary Caravan, compagnia di teatranti romani, cerca di riproporre, di ricreare ogni volta che va su un luogo diverso. Questa volta sono a Scampia per il festival del Festival Biscotto, PLA Festival Biscotto a Scampia per la legalità, e noi salutiamo Emanuele, proprio della Johnny Biscotto Extraordinary Caravan. Buongiorno Emanuele. Ciao, buongiorno a tutti. E allora, diversi giorni di laboratori teatrali, poi le parate nel fine settimana per coinvolgere i ragazzi del quartiere di Scampia sul tema della legalità, però attraverso modalità e strumenti che adesso ci racconterà Emanuele, una bella esperienza, tante cose da raccontare. Prima di tutto, uno dei momenti più attesi era quello della parata proprio nel quartiere caldo di Scampia. Come è andata ieri, Emanuele? Abbiamo attraversato un po' alcuni luoghi che ci sembrava significativo attraversare, c'è stata una bellissima risposta della gente del quartiere, e abbiamo fatto questa parata appunto molto colorata con la banda Baleno e la Malamurga. La banda Baleno è una banda di ragazzi qui di Scampia che suona la murga, che è un ballo argentino che serve appunto a fare in qualche modo denuncia sociale, è un ballo molto vivo con tamburi eccetera. Abbiamo attraversato il quartiere, c'è stata una bellissima risposta, la gente è uscita in strada, ci ha chiesto dove andavamo, cosa facevamo, molti avevano già sentito del festival, ci siamo portati dietro le persone in questo corteo che ha attraversato un po' varie zone del quartiere. È stato un momento di festa molto bello, insomma. Molto soddisfatto. Insomma, sono momenti simbolici, ma anche momenti di vita reale. Voi siete abituati con la vostra compagnia di teatro ad andare in giro e a creare delle situazioni, è per questo che siete stati coinvolti a Scampia per questa sesta edizione di questo diciamo l'anniversario del Comitato Spazio Pubblico, che proprio a Scampia si occupa così, cerca di tirare fuori un po' dal degrado aree di questo quartiere un po' difficile. Voi siete abituati a farle queste cose. I ragazzi di Scampia che invece ha incontrato, Emanuele, come hanno reagito alle vostre sollecitazioni? Ma guarda, molto bene, anche molto semplice, nel senso noi abbiamo proposto una serie di laboratori che hanno coinvolto già sia dei ragazzi già inseriti in alcuni percorsi che le associazioni portano avanti, e con quei ragazzi insomma abbiamo cercato di proporre qualcosa che potesse inserirsi nel percorso più largo che le associazioni fanno con loro da molto tempo, proprio per fare in modo che non fossimo una meteora che arrivava sul territorio e se ne andava, diciamo, lasciando solo, appunto, lavorando proprio fianco a fianco con le associazioni. Noi in questo contesto dei laboratori poi in realtà si sono uniti anche dei ragazzi che si avvicinavano anche per la prima volta a un'esperienza del genere, ma è stata un'interazione molto semplice, anche perché i laboratori sono stati di circo, di teatro, sono dei laboratori, insomma, diciamo che si occupano di discipline, come dire, universali, no? E quindi c'è stata una bellissima risposta da parte di tutti i ragazzi. Ecco, ma una curiosità è anche questa, no? Perché sappiamo che da sempre il teatro, il mettersi su un palcoscenico può essere un modo per tirare fuori delle emozioni anche in situazioni complicate, come può essere la vita di un ragazzo a Scampia. Ma la domanda è questa, Emanuele: all'epoca dei social network, della vita virtuale sul web, questi ragazzi che voi avete incontrato sono disposti a mettersi in gioco in prima persona così, con divertimento, ma anche realizzando qualcosa che va incontro ai loro interessi? Ma guarda, da una parte noi social network li utilizziamo, li abbiamo utilizzati per creare gli eventi, per stringere contatto con i ragazzi, quindi c'è anche un lato positivo, no, di tutto questo, che consente di entrare in comunicazione anche con loro. Dall'altra parte io credo che proprio nell'epoca dei social network affiora maggiormente un bisogno di contatto reale, e quindi dall'altra parte credo che sia quasi una necessità il fatto di creare qualcosa di non virtuale, per questo che forse il teatro di strada, il teatro riaffiora spontaneamente in questo momento, anche perché garantisce un contatto diretto, un contatto umano tra noi che facciamo questo di lavoro, tra le persone che incontriamo, insomma, credo che sia anche una conseguenza proprio di tutta questa virtualità. E comunque non, noi abbiamo effettuato molti dei contatti che abbiamo preso con i ragazzi, anche con le persone, appunto con i ragazzi più adolescenti che si sono occupati di realizzare gli eventi hip hop di domenica sera, sono stati contatti via Facebook, per cui l'abbiamo, diciamo, utilizzato. Insomma, siete riusciti a mettere insieme le due dimensioni, quella del virtuale e quella del reale. Il tema della legalità che voi avete toccato e che avete voluto anche simboleggiare è stato affrontato semplicemente con difficoltà? Come è andata? Ma guarda, il tema della legalità, intesa come la legalità che viene in questi giorni, diciamo, descritta, e continuamente c'è così un bombardamento su questo tema della legalità nei mass media, eccetera, non era un tema centrale del festival. Quello che noi facciamo semplicemente è creare dei momenti di socialità attraverso il nostro percorso e il nostro modo di fare arte. Questo lo facciamo nella stessa maniera in un quartiere come Scampia, in un quartiere di una città dove c'è uno stato sociale più ricco. Non, la nostra modalità di intervento non cambia, perché credo che si rivolga comunque in maniera più profonda, cioè al di là del contesto sociale. Quindi non è tanto il tema della legalità che era centrale, quanto il fatto di creare un momento di socialità all'interno di un quartiere che ha spazi enormi, che ha un problema urbanistico enorme, perché poi il problema fondamentale di Scampia, per quello che noi abbiamo potuto vedere nel periodo, diciamo, tra virgolette, di indagine che abbiamo svolto, è proprio questo: questi enormi spazi che creano delle enormi difficoltà di socialità proprio per la grandezza, strade sterminate su cui le macchine corrono, quindi poca possibilità di svolgere attività all'aperto, in strada. Piuttosto direi che è questo la cosa su cui ci siamo concentrati, per questo le parate, per questo gli spettacoli in strada, proprio per tornare a riprenderci un po' la strada tutti insieme. Benissimo, Emanuele, un'ultima cosa vogliamo chiederti: il festival si chiude oggi, domenica, ci sono degli appuntamenti nella giornata, nel pomeriggio, che per chi si fosse magari incuriosito e vuole venire a trovarvi, che vuoi ricordare? Assolutamente sì, dalle 18 saremo a Piazza dei Grandi Eventi, faremo una serie o Piazza Giovanni Paolo II o, per chi è di Scampia, Piazza del Mammut. Faremo una serie di spettacoli di strada e chiuderemo con l'evento di cui parlavo prima, organizzato con i ragazzi, quindi ci verrà fatto un murales in ricordo del festival, con quello che i ragazzi vogliono, diciamo, lasciare come traccia permanente del passaggio di questo festival e di quello, insomma, con un messaggio che loro vogliono comunicare. Spettacoli di strada sono aperti a tutti, sono dalle 18, ci sarà una cena organizzato dalla compagnia, che è un gruppo di donne rom e donne napoletane che lavorano fianco a fianco per cucinare, fanno un servizio di catering, quindi c'è anche un percorso lavorativo che hanno avviato, e questi sono gli appuntamenti di domenica pomeriggio. E va bene, allora grazie Emanuele da Johnny Biscotto e Straordinari Caravan per questo festival della legalità organizzato dal Comitato Spazio Pubblico in occasione del 6° anniversario della nascita. Siamo a Scampia, un quartiere spesso descritto più per cose negative che per cose positive. Questo invece era un esempio diverso. Grazie per essere stato con noi. Buona fine di festival, è tutto anche per questa edizione oggi. Si può fare. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro La Corte in regia oggi. Ci risentiamo sabato prossimo.